io fingerò di non sentirti e suonerò la mia chitarra, suonerò. E piangerò perché t'amo più che mai, ma solo lei non mi ha deluso mai come te. Non vivrei senza questa mia chitarra, morirei, morirei. Solo lei dalla notte la tristezza porta via, porta via, mentre tu ragazza mia, per capriccio prima o poi, mi potresti far sentire più solo che mai. Quando mi parlerai, sentirò sempre più forte, suonerò la mia chitarra, suonerò. Non vivrei senza questa mia chitarra, morirei, morirei. Solo lei dalla notte la tristezza porta via, porta via, mentre tu ragazza mia, per capriccio prima o poi, mi potresti far sentire più solo che mai. Non vivrei senza questa mia chitarra, morirei, morirei. Solo lei dalla notte la tristezza porta via, porta via. Non vivrei.